Can you see it, my brother? Can you see the new? Can you see it, my sister? Can you see the new? Can you see it, my brother? Can you see the new? Can you see it, my sister? Can you see the new? Don't you worry about a thing, Stevie Wonder, Inner Vision 1973, Tamla Motown, un grandissimo successo, 1993, Tribes, Scribes and Vibes, Talk Loud Incognito. Complimenti a Marco, che orecchio, che ascolto attento e soprattutto raffinato. Grande Marco che si accaparra, per meglio dire, l'autore John Cheever per questa raccolta di racconti. Nasce nel 1912, scompare nel 1982, è stato definito il Chekhov dei sobborghi americani e l'Ovidio di Ossining per i suoi racconti. Ha vinto il premio Pulitzer, il National Book Award, il National Book Critics Circle Award, edizione racconti, anche se il titolo è un po' particolare. Vi assicuro che la casa editrice è sinonimo di grande ricerca e qualità, magari ti terrà compagnia anche se è solo lunedì, indubbiamente per un bellissimo weekend, speriamo. Grazie Marco, al 333-180-9494 il premio nei magazine per oggi. Legato ad altri suoni, quindi inizia così la nostra rassegna stampa culturale, per cui ripartiamo con la base di Ronnie Jordan, See the New, che è un po' sigla e base per quanto riguarda i magazine. Iniziamo allora da una esposizione molto particolare riguardante la satira, pagina 2 Alias, che è stato un po' il mio primo magazine per quanto riguarda le uscite, legato al Manifesto. Dopo poi uscì anche l'edizione della Domenica, un po' diversa, più incentrata sulla letteratura, sui classici, l'Alias della Domenica, mentre al Sabato invece più sul fumetto, sul cinema, su argomenti legati più al contemporaneo. Ma per la satira, pagina 2, il long format legato a un'esposizione, Quando Calvino uscì sul male, questa pubblicazione, questa uscita che insomma attaccava in maniera molto incisiva, con grande intelligenza, tutto quello che è un sistema di informazione, un sistema politico, lo faceva anche in maniera molto esplicita, altri periodi dove il politically correct, che ha avuto modo di storpiare veramente ogni aspetto non solo di informazione ma soprattutto di satira, è diventato in maniera trasversale dominante, con tutto quello che può essere anche le contraddizioni all'interno di quello che può apparire qualcosa di giusto, ma al contempo vi assicuro che ha tante contraddizioni che vanno a colpire e limitare quella che è la critica grazie alla satira. E un grandissimo scrittore come Calvino ne è stato protagonista. Un incontro con Angelo Pasquini ricorda i classici falsi e la vera anticipazione di un capitolo dello scrittore che, come ho detto, si ritrova pubblicato dal Male, questa pubblicazione molto particolare. Variazioni sulla verità. Italo Calvino volle pubblicare un capitolo del capolavoro, Se una notte d'inverno un viaggiatore, all'epoca ancora inedito, quindi siamo all'inizio del 1979, verrà poi pubblicato in giugno del 1979, e lo fece sul Male, che ora fa parte della mostra sullo scrittore alle Scuderie del Quirinale. Come ho detto, Angelo Pasquini ricorda l'episodio e le celebrità nei falsi della rivista. Ve ne sono stati diversi, come la copertina di Paese Sera con la copertina arrestato Ugo Tognazzi e il capo delle BR. Ecco, a proposito di fake news talmente evidenti, le controrivoluzioni e la rivoluzione combattono tra loro a colpi di falsificazioni. Nessuno può essere sicuro di ciò che è vero e di ciò che è falso. Quello che troviamo poi nell'estendersi dell'articolo è che lo stesso Calvino invece ha voluto portare lui questo falso, cioè allora se è un falso, sì, per quanto riguarda l'uscita del lavoro Sei una notte d'inverno, un viaggiatore, ok, ma l'autore no, l'autore che in visita alla redazione del Male ha voluto lui stesso portare un falso di se stesso con quello che è una critica autocritica a quello che poi sarebbe successo a breve, ed è in esposizione, come ho detto, per la mostra dedicata al grandissimo scrittore. Qui l'intervista Angelo Pasquini, che è sceneggiatore, scrittore, inventore dell'immobilismo molisano, un'altra rivista che aveva queste attinenze, aveva questo motivo di critiche, cofondatore di Zut e del Male, di cui era responsabile delle pagine culturali, un vero esperto in materia di satira, e ricorda questa visita e questa proposta. Allora, io scrivo un falso, ma è un falso vero perché lo scrivo io. Quanto vi è da rivedere in quello che è un politically correct, che come ho detto va poi a limitare veramente in maniera importante tutto quello che può essere una satira, che viene autolimitata anche dalla stessa parte progressista, insomma, di motivi di analisi per quanto riguarda queste due parole. Politically correct è veramente qualcosa che è un rasoio a doppio taglio, da Calvino a quella che è una invece attinenza purtroppo esattamente diversa, ma a divisione che può dare continuità nella nostra rassegna stampa culturale, per la saggistica a pagina 18, quando poi c'è l'ignoranza. Beh, l'ignoranza non è mai innocua, in politica e religione provoca catastrofi. È un saggio che viene portato dalla casa editrice Raffaello Cortina, che ha solo un difetto: il prezzo, perché altrimenti i saggi di Raffaello Cortina portati in libreria da questa casa editrice sarebbero veramente da raccogliere tutti. Ogni epoca ha ritenuto di avere conoscenze superiori rispetto alla precedente, spesso sbagliando. Una storia mondiale del non sapere, dal Medioevo all'Ancien Régime alla contemporaneità iperconnessa, che ovviamente dà grande contributo per quanto riguarda l'ignoranza. Oltretutto, come vediamo, se i capi di Stato stessi sono vanto di tutto ciò, e qui vengono citati Donald Trump e Jair Bolsonaro, hanno un motivo in più per giustificare la spettacolare dimostrazione di come l'ignoranza possa essere portata a motivo di danno, e la dimostrazione che danno certi capi di Stato. È l'articolo a pagina 18 per la presentazione di questo lavoro di Peter Burke, edizioni Raffaello Cortina. Questi sono i mega invece sui 103.1, la rassegna che prende le importanti pubblicazioni culturali allegate ai principali quotidiani usciti durante il weekend, intervallata da musica, Between or Beyond the Black Forest, e poi si torna in diretta tra pochissimo. Perché? Perché questa è un'edizione un po' particolare dei magazine e avremo anche diverse voci. In partenza il Porretta Film Festival, a direzione artistica di Luca Elmi, e per saperne di più state sintonizzati sui 103.1. A tra poco. Dalla MPS Between or Behind Black Forest, il disco qui che sta girando vicino a me sul lettore, Charlie Antolini, Boy All Over Me, il brano che sta volgendo alla conclusione. No, l'articolo per Società e Cultura, magari dopo la pubblicità facciamo lo speciale dedicato al Porretta Film Festival, arrivato alla 22esima edizione. Ci sono alcuni aspetti che vengono sottolineati, ma l'ignoranza nella religione e quella in politica contribuiscono a determinati aspetti che portano catastrofi, come durante la conferenza di pace a Parigi nel 1919, dove spopolò quella del primo ministro britannico David Lloyd George, che scambiò Ankara per la Mecca. Ecco una... Non sapeva chi fossero gli slovacchi e non aveva idea di quale fosse la composizione dell'Asia orientale. Nella contemporaneità della connessione permanente del villaggio globale si ha l'impressione di disporre su richiesta di un numero illimitato di informazioni, con la prospettiva della potenziale messa al bando dell'ignoranza. Ma non è esattamente così. E difatti il so di non sapere di socratica memoria appare decisamente passato di moda nelle gotica ed egolatrica età postmoderna, che mette spesso gli esperti autentici sul banco degli imputati e tracima di opinionisti. Io so una cosa, che più invecchio più sono ignorante. Ecco. Più si invecchia e meno si sa, è quello che dico sempre anche ai giovani collaboratori qua in redazione, perché aumenta la voglia di sapere, nello stesso tempo si ha la consapevolezza che il tempo sta stringendo, per cui ti rendi conto veramente che c'è un mondo ancora da scoprire e non si può dire beh, tanto basta digitare su Google e lo scopro, che importa. Ecco, così le nozioni diminuiscono ulteriormente. Ne abbiamo ogni momento comunque di queste dimostrazioni, ai noi. Beh, ovviamente ne siamo un po' tutte e un po' tutti protagonisti, lo sappiamo bene. Già averne però conoscenza è qualcosa che può aiutare. Per quanto riguarda lo stacco musicale che ci porta alla pubblicità, ho selezionato Moby dal disco per me bellissimo che è Play Find My Baby. Poi torniamo tra poco e, come diceva mia nonna Alda, studia Fangè, che di ignorante e ne bella sé, studia ragazzo mio, che di ignoranti ce ne sono già abbastanza. Non l'ho ascoltata, vedete? Accidenti. I'm gonna find my baby. nuovo in diretta con questa Blue Rondola Torque di Dave Brubeck, ma questo ovviamente non è interpretato o l'originale di Dave Brubeck, ma le Ruins in questo lavoro di raccolta tributo al grandissimo compositore. Seguiremo anche questa edizione 2023, programma della 22esima edizione del Porretta Film Festival, Festival del Cinema di Porretta Terme. Sarà dal 2 al 10 dicembre, ci sarà il concorso Fuori dal Giro, che invece Festival nel Festival è arrivato all'11esima edizione, il premio Elio Petri alla quinta, insomma un festival che ha rassegna nella rassegna, che ha una continuità, seguito dai 103.1. E il festival diretto da Luca Elmi è rappresentato da una locandina che ritrae per quest'anno Roberto Benigni in un suggestivo bianco e nero fotografato da Luciana Mulas. Perché? Beh, il perché lo racconta Luca Elmi ai microfoni del Breakfast Club per una conversazione che dà presentazione al film Cinema di Porretta, programma 22esima edizione, come ho detto, Porretta Film Festival. Siamo arrivati alla 22esima edizione e siamo con Luca Elmi, direttore artistico della rassegna, al quale do il buongiorno. Buongiorno Luca. Buongiorno e grazie. Allora, fili conduttori, programmazione, inizio, abbiamo una bella conversazione ricca da fare, poi seguiremo il festival passin passino. Da dove iniziare, Luca? Beh, torno al cinema in Alto Reno e direi iniziare dall'immagine iconica del manifesto, che è Roberto Benigni fotografato da Luciana Mulas. Faremo una mostra dedicata a questa fotografa scomparsa qualche anno fa, che in 40 anni della sua carriera ha raccontato il cinema attraverso i volti dei suoi protagonisti e anche attraverso il cinema libero che si faceva in Alto Reno, in Porretta Terme, negli anni 60-70. Lei ne è stata una testimone. Quindi da questa immagine iconica direi che vorrei ricordare i 40 anni di Tumi Turbi, il primo film di Roberto Benigni, che grazie alla Cineteca Nazionale riproporremo proprio il 9 a Porretta al Cinema Cursal. E come tradizione ogni anno c'è il concorso Fuori dal Giro, siamo arrivati alla 11esima edizione, giovani autori che si stanno affermando nel panorama nazionale e internazionale racconteranno le loro storie con gli attori, gli autori, porteranno a Porretta per il pubblico del festival e parleranno e discuteranno proprio con loro. Voglio ricordare che i premi che vengono assegnati sono il premio del pubblico, il premio della giuria giovani, che quest'anno sarà composta da oltre 50 ragazzi, e il premio dei critici del sindacato cinematografico critici. Quindi è un appuntamento per noi molto importante all'interno del festival, questo del Fuori dal Giro, però tanti altri eventi, tra cui il Focus Emilia Romagna, per ricordare e far conoscere il grande cinema che si sta facendo in Emilia Romagna, perché stanno crescendo tanti nuovi autori e le produzioni che arrivano nel nostro territorio sono sempre di più. Quindi un piccolo estratto del grande lavoro che sta facendo la Film Commission in questi anni. Il festival racconta anche il cinema delle origini con Occidente di Christian Mungiu, il regista premiato a Cannes, comunque un autore conosciuto a livello internazionale, che porta a Porretta il suo primo film. Sentendolo telefonicamente era molto contento che avessimo deciso di riportare in Italia, anche perché è un film che non è mai uscito nella grande distribuzione, il suo primo film, e il film degli esordi racconta molto di un autore. 2 al 10 dicembre, e poi avremo modo di parlarne nuovamente nei singoli appuntamenti del premio Fuori dal Giro, del concorso, per meglio dire, l'incipit della conversazione con la direzione, il direttore artistico Luca Elmi. Procediamo, premio Elio Petri e anche le sedi del festival, che non è solo Porretta ovviamente. Abbiamo il premio Petri e in queste settimane si è riportato in sala la cinquina finale al Cinema Odeon, tra l'altro con grande successo e con grande, diciamo, voglia di, soprattutto dei giovani di vedere questi film, e l'8 dicembre scopriremo il vincitore. Tanti eventi speciali, film del passato, quindi restauri, e poi una cosa a cui siamo molto legati, che è l'anteprima italiana del film Exodus, che abbiamo avuto grazie al supporto della Film Commission svedese. Un'anteprima italiana parla di un racconto, di un viaggio di profughi che cercano di raggiungere la Svezia, e quest'anno è un po' il tema che riusciamo a riportare, a far conoscere, e su cui secondo me è giusto anche poi, insomma, dibattere, perché che gente scappa da casa propria per raggiungere un posto migliore. E mi collego a questa cosa perché per i ragazzi, per oltre 700 ragazzi, faremo vedere Io Capitano di Matteo Garrone, e che anche quello è un viaggio, certo, diciamo, per raggiungere un posto migliore. Questo infatti è così in sintesi, perché vedo che il programma è molto steso e motivo di approfondimento ce ne sarà. Come ho detto, seguiremo tutti gli appuntamenti con Radio Città Fujiko. Aggiungiamo anche novità per quanto riguarda le sedi. Abbiamo parlato di Odeon, il Cinema Kursaal. Di solito mi aggiungi anche qualcosa. C'è qualche sorpresa? Beh, useremo il Teatro Testoni per diverse proiezioni, che è un bellissimo teatro di Porretta. E poi ci sarà questo nuovo spazio espositivo, battezzato Spazio Espositivo FCP, dove ci sarà la mostra di Luciana Mulas, che è la prima mostra di Luciana Mulas in Italia sui volti del cinema. Siamo molto orgogliosi. Certo, ne avete ben d'onde. E una magia che ti proponi per l'edizione 22esima, concludo così, di solito, un desiderio, improvvisamente che succede di bello, il tuo desiderio? Che succeda nel 22, in questa edizione? Sicuramente ho sempre una paura che nessuno venga a vedere il film. Quindi c'è sempre un grande pubblico, quindi questo mi fa piacere. Spero che il cinema faccia sognare, e spero che faccia uscire la gente con un ottimismo per il futuro, insomma, per un 2024, diciamo, persone migliori. Non so come dire, non so se questa magia la può fare il cinema. Ma dai, ci proviamo. Le intenzioni ci sono. Io ti ringrazio tantissimo, Luca, e buon festival. Grazie a voi e grazie come al solito per il supporto. Gianluigi Trovesi in una formazione di 9 elementi per rileggere Shakespeare in versione italiana, grazie a Roundabout, a Midsummer Dream. Intorno, così, per dire, all'incirca di un sogno di mezza estate. Iniziano in questo bosco fatato dove creature, streghe, insomma, si trovano per questa strana riunione che dà via alla fantastica commedia di Sogno di mezza estate. E il brano di Gianluigi Trovesi è C'era una strega, c'era una fata. Thank you. si trasforma in un groove, è veramente Jean-Louis Matinier alla fisarmonica. Bebop di Gianluigi Trovesi per questo brano, C'era una strega, c'era una fata, rilettura di Sogno di una notte di mezza estate, qua il clarinetto basso. Oltre che alla fisarmonica Jean-Louis Matinier, troviamo già conosciuto Renaud Garcia Fons al basso. Yeah! E per concludere, c'era una fata, c'era una strega, non possono che mancare i personaggi cattivi in questo bosco. Alla pagina 8 di Alias, edizione del sabato del Manifesto, percorsi nelle selve del mondo in compagnia di classiche bambine, Cappuccetto Rosso, ma anche streghette, poetiche, volpi e lupi cattivi. Un Cappuccetto Rosso che diventa in questo caso non certo indifeso, anzi, ma piuttosto un lupo squartato in maniera truculenta, dove i cosiddetti cattivi, alla fine, a pagina 8 di questo articolo di Arianna di Genova sull'interessante Alias uscito questo sabato, dà importanza su come vengono vissuti e soprattutto che fine fanno a volte i cattivi, che poi nella storia e nella quotidianità molte volte i mostri non sono esattamente quelli che troviamo costantemente identificati nelle favole, non è sempre così. Sapete chi oltretutto ha dato in maniera diversa? È Truman Capote con A Sangue Freddo. Questo bellissimo capolavoro. Truman Capote mette sul banco degli imputati, delle persone che vengono ovviamente ritenute cattive, ma che se vediamo nel loro percorso, insomma, c'è qualcosa che fa molto riflettere. Figuriamoci, Truman Capote scriveva di queste cose in un'America assolutamente conservatrice, lui omosessuale, quindi figuriamoci se era visto di buon occhio dal governo americano. Grandissimo scrittore. Io vi lascio con queste note, do appuntamento a domani con la prima colazione in diretta su Radio Città Fujiko. Ci sarà il Mood Groove anticipato da un'esposizione di cui parleremo appunto in questa sorta di artistico last minute di domani. A breve avremo l'EDP enciclopedico, la rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali. Oggi è lunedì e quindi caffè e paglia fino alle 12.30 sui 103.1 e con un caloroso abbraccio io mi congedo a voi ringraziandovi per l'attenzione e vi aspetto per colazione domani alle ore 7 con il Breakfast Club dal vostro William Piana. Ciao a tutte, ciao a tutti, buon lunedì, buona settimana.